Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e nove minuti, ultima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, parleremo chiaramente anche di borsa, oggi in recupero parziale, però più 3,1% Milano, più 2,80 Parigi, più 2,70 Francoforte, più 1,5 Londra e un punto e mezzo lo guadagna anche New York. Tra i titoli che recuperano non sono necessariamente quelli che più hanno perso, anche se ovviamente sui bancari, per esempio Popolare Emilia Romagna più 7,20, Banco Popolare più 7, Popolare di Milano più 6,13 e ancora sempre sui bancari Unicredit più 5% e Mediobanca più 4,80, Intesa più 4,30%. Lo spread è sceso a quota 160, però posso dirla tutta, così rispondiamo anche agli ascoltatori che dicevano: avete visto, avete detto, i vostri ospiti dicono che vale la pena investire. I nostri ospiti dicono quello che vogliono, nel senso che c'è libertà di pensiero, ci mancherebbe, però invitavamo a non guardare al giorno per giorno se si vuole fare un ragionamento, diciamo, un po' razionale sulla borsa, perché il giorno per giorno non è razionale. E allora mi immagino adesso di ricevere gli sms di scuse di tutti quelli che hanno insultato in questi due giorni dicendo: non capite niente, la borsa cala. Se poi uno vuole trovare un motivo per cui oggi il Banco Popolare guadagna il 7,22%, non c'è. Il motivo si chiama rimbalzo. Sì, poi lo spread è sceso a 160, ma faccio notare che il calo si era avuto, il primo tonfo, quello di due giorni fa, si era avuto con uno spread che viaggiava intorno a 170. Vogliamo raccontarci che 10 punti di spread determinano un calo del 5% o un rialzo del 7%? Ma per favore, è un pretesto, i titoli sono calati e qualcuno si è messo a comprare. Allo stesso modo, non è che le prospettive tanto evocate sugli stress test, probabilmente c'è anche qualcosa di vero, non lo so, siano così cambiate da giustificare un rialzo del Monte dei Paschi del 4% o appunto della Popolare di Milano del 6,31%. Semplicemente è un rimbalzo e ripeto, trovare degli elementi di razionalità nel giorno per giorno di borsa delle volte è difficile, ma soprattutto in altri casi è inutile. L'euro a 1,2760. Per quello che riguarda i temi, ovviamente torneremo sulla finanziaria e sulle regioni in guerra con varie dichiarazioni. Abbiamo tantissime voci di vari presidenti delle regioni, proprio sul, penso alla regione Calabria, alla regione Basilicata, alla regione Veneto, cercheremo anche la regione Lombardia. Però da questo punto di vista faccio notare che il tema che abbiamo cercato di affrontare ieri e che continueremo ad affrontare anche oggi è il seguente: le regioni insistono nell'allarme rischio per la sanità, ovviamente sanità, così come i comuni insistono sull'allarme rischio per le buche stradali e adesso arriveranno anche gli asili, e rilanciano con il presidente Chiamparino, dicono che hanno una proposta per rispettare il saldo di 4 miliardi. Se fosse così, ovviamente, se il saldo, quindi 4 miliardi in meno, fosse confermato, ma in maniera da non creare, diciamo, disagi, tagli lineari e problemi di gestione alle regioni, sarebbe la quadratura del cerchio. Il tema è complesso e chiede Chiamparino: basta con i tweet, vediamoci per risolverlo. E anche in questo caso penso che Chiamparino abbia ragione, e infatti è probabile un incontro giovedì con le regioni, giovedì 23. Faccio però notare, poi parleremo di altri costi, che i consigli regionali italiani costano, i consigli regionali, non gli assessori, i parlamentini regionali, costano 1 miliardo di euro l'anno. In Sicilia 156 milioni, in Lazio 84, Calabria 79, Sardegna 74 milioni. I compensi lordi ai consiglieri regionali sono di circa 230 milioni di euro all'anno e si spendevano, perché adesso c'è il tentativo anche di chiedere un contributo sui vitalizi, ma fino a un anno fa si spendevano 170 milioni di euro per pensioni e vitalizi, che secondo me non dovrebbero proprio esistere. Cioè, hai fatto il consigliere per una legislatura, per due, per tre, ma perché devi avere la pensione? Non è un lavoro, avrai un'indennità, avrai un rimborso spese, sicuramente nessuno ti chiede di perderci o di vivere di stenti, ma la pensione si dà per un lavoro, quella è, diciamo, una cosa ben più alta del lavoro, lo fai per passione, lo fai per vocazione, lo fai perché ci credi. No, ma non è che se uno va a fare, non è volontariato, infatti vieni pagato, e anche non poco, mese per mese, ma la pensione perché? Un mistero, che comunque sono 170 milioni di euro che si spendono ogni anno. La retribuzione media lorda di ciascuno dei 1117 consiglieri regionali di questa penisola è in media 204.000 euro lordi. La media è una media ingiusta, perché si passa dai 118.000 euro lordi dell'Emilia Romagna ai 244.000 del Piemonte, ai 270.000 del Lazio, ai 280.000 della Calabria, dove la regione è notoriamente una delle più efficienti di questo paese. Ma faccio notare che per ogni consigliere poi è un costo diverso, perché un conto quanto è la retribuzione, poi quanto costa complessivamente un consigliere regionale. Comprende sì lo stipendio, la remunerazione, ma anche le altre voci. Allora, la media italiana è di 875.000 euro per consigliere all'anno, non lo stipendio, ma quello che costa. 410.000 la voce messa in Val d'Aosta, 415 in Trentino, 790.000 in Basilicata, e infatti poi sentiremo anche il presidente della regione Basilicata. Ora, Basilicata ha un stipendio alto e costi altissimi, va bene, 1.000.000 in Piemonte, 1.500.000 in Calabria e 1.700.000 euro in Sicilia. Questo è quello che costa ogni consigliere alla singola regione. E poi ci sono casi interessanti di regioni medio-grandi come l'Emilia, che spendono molto meno della media nazionale. Ma se noi andiamo a dividere il costo di ogni regione per gli abitanti della regione stessa, scopriamo cose interessanti. La Lombardia, mantenere il Consiglio regionale lombardo costa 7 euro a ogni cittadino della Lombardia, va bene? L'anno. Mantenere la Valle d'Aosta costa 112 euro l'anno, e qui infatti c'è il tema delle regioni a statuto speciale, che sapete chi conduce come la pensa, non hanno più ragione né senso per esistere, se dobbiamo andare verso veramente un vero federalismo dei costi standard e quant'altro. Questo per dire cosa, e poi passiamo alle notizie in breve, che è giustissimo non chiedere che i tagli non siano lineari, che non guardino la differenza tra regioni virtuose e regioni mal gestite, che non vadano a danneggiare i servizi erogati ai cittadini, però ogni tanto qualche governatore potrebbe alzarsi la mattina, svegliarsi e dire: certo, c'è un problema nei costi del nostro funzionamento. C'è un problema in quanto costa la macchina organizzativa della regione. Se no, è difficile che poi parte dell'opinione pubblica non dia ragione al Presidente del Consiglio quando dice: prima iniziate a ridurre gli sprechi, poi pensate a tagliare la sanità o, nel caso dei comuni, a non coprire le buche che ancora non avete coperto. 349-238-6666 per gli sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. Vedo molti commenti sulle borse. Comunque, andiamo sulle altre notizie in breve di questa giornata, e poi arriviamo appunto ai due temi: costo delle regioni da un lato. Tra l'altro, vi anticipo che continua il nostro viaggio che stiamo facendo da inizio settembre con manager, amministratori delegati, proprietari di grandi imprese, ma non grandi solo per il volume, grandi perché hanno internazionalizzato, per capire se c'è qualche, chiamiamolo così, consiglio, qualche comune denominatore, qualche visione che può essere trasmessa anche agli altri ascoltatori. Vi anticipo che oggi sarà la volta del mondo delle due ruote. Noi siamo passati dalla ceramica alla nautica, al vino, all'agroalimentare in generale, vado a memoria delle ultime interviste fatte. Oggi sarà la volta delle due ruote e avremo ospite il numero uno della Ducati, Domenicali, non per parlare tanto della Ducati, ma per parlare di come si è riuscito a crescere sui mercati internazionali e anche a ottenere un accordo aziendale interno. Si lavora la domenica in alcuni reparti, ma con due giorni di pausa, senza tensioni, anzi con un'approvazione al 70% di tutti quelli che hanno votato e con un grosso, diciamo, accordo anche da parte dei sindacati. Allora, il petrolio è sempre fermo a $83 al barile, $83,2 al barile. Sul fronte internazionale, per l'Ucraina è ancora stallo, sono emersi, come vi hanno raccontato i nostri GR24, numerose divergenze nei colloqui questa mattina a Milano e anche nel pomeriggio nel corso del vertice ASEM. Matteo Renzi ha detto sì, ci sono stati dei passi in avanti, ma c'è ancora molto da fare. La SACE fa notare che aumenta il rischio di perdite per le imprese italiane esposte quanto a export nei confronti della Russia. Potrebbe arrivare a esserci un calo delle esportazioni tra l'1,8 e i 3 miliardi di euro nel biennio 2014-2015. I settori del Made in Italy più colpiti sarebbero la meccanica, strumentale, l'energia e il turismo. Renzi però ha parlato anche di crescita del prossimo vertice europeo, Consiglio europeo la settimana prossima a Bruxelles, e ha detto sarà lì il momento in cui ci confronteremo sulla crescita. Rispetto alle questioni europee, la settimana prossima a Bruxelles, giovedì e venerdì, ci sarà il tradizionale Consiglio europeo e sicuramente non mancheranno le occasioni per confrontarsi sui punti di cui lei ha parlato, a partire dal tema della crescita e più in generale delle priorità che vogliamo darci per i prossimi mesi. Il numero uno della Federal Reserve americana, Janet Yellen, che fa notare come negli ultimi decenni l'aumento delle disuguaglianze è vicino ai massimi appunto dell'ultimo secolo, degli ultimi 100 anni, e può essere spiegato con un aumento significativo dell'utile e della ricchezza dei più benestanti e standard di vita fermi per la maggioranza. E dice la Yellen, è appropriato chiedersi se questo trend sia compatibile con i valori della nostra storia. Sì, ha ragione. Facciamo solo notare che l'amministrazione Barack Obama, tra le varie cose che non ha fatto, che non è riuscita a fare, non è riuscita neanche a riformare o a dare una seria legge su Wall Street. E quindi quello che abbiamo notato, lo raccontiamo dal 2010, che i bonus dei maghi delle banche d'affari americane, maghi, potremmo dire stregoni in alcuni casi, sono tornati ai massimi livelli. Allora la Yellen ha ragione, poi deve anche girarsi verso la Casa Bianca e dire come mai non siamo riusciti a fare una legge, non dico che vincolasse i bonus, ma insomma che riducesse anche la parte di bonus variabile sulle azioni, tutte cose che ci siamo detti nel corso degli anni, perché se l'amministratore legato guadagna molto di più dall'andamento delle azioni che dal suo salario fisso, forse tenderà a fare operazioni più rischiose, tanto poi se ne va, ma intanto fa salire il titolo, cioè cose che ci raccontiamo dal 2008. Non è successo quasi nulla. Per ora gli dèi dell'Olimpo di Wall Street sono saldamente sulle loro nuvole, poi si è distrutta parte dell'economia, ma loro, salvo che alcuni casi o pesci più piccoli, non è che abbiano pagato tantissimo. Veniamo alla Grecia. La Grecia, a parte che oggi Atene ha avuto un netto rialzo del 7,20% la borsa, la Grecia per ammissione del premier Antonis Samaras sta negoziando una linea di credito cautelativa con il Fondo Monetario Internazionale da usare in caso di turbolenze, anche perché secondo indiscrezioni questa linea servirebbe ad Atene in vista dell'uscita dal programma della Troika. We'll be right back. dice oggi il nostro Weidmann quotidiano? Vabbè, il presidente della Bundesbank, della banca centrale tedesca, anche oggi torna a dirci che è giusto che la Germania ottenga il pareggio di bilancio, anche se in questo momento il problema dell'Europa si chiama disoccupazione, si chiama deflazione, però il deficit a zero è importante. Ricordo a Weidmann che era molto importante anche per la Repubblica di Weimar, no, che come obiettivo aveva sto cavolo di pareggio del deficit e per non avere l'inflazione. Quindi da lì partì tutto un insieme di manovre restrittive. Basta leggersi la storia, Weidmann. Manovre restrittive che portarono il Partito Nazionale Socialista dallo 0,8 al 18% nell'arco di 2 anni. Perché? Perché le manovre restrittive crearono il boom e il record di disoccupazione in Germania. Però i conti erano abbastanza in ordine e l'inflazione sotto controllo. Basta che non arriviamo alla Repubblica di Weidmann, che sennò sarebbe il massimo. E poi sempre Weidmann continua: il rischio deflazione in Europa è basso, va bene, se lo dice lui. E poi attenzione, la Banca Centrale Europea con il piano di acquisto di ABS va verso la filosofia del quantitative easing, come se fosse un reato. È la filosofia, Weidmann lo sa benissimo, che ha applicato per 5 anni la Federal Reserve, che sta riducendo lo stampaggio di moneta, ma ha stampato moneta per 5 anni, che ha adottato la Banca d'Inghilterra, la Bank of England, che ha adottato la Bank of Japan. Però è chiaro che tu sei a Firenze, c'è un'espressione, il più figo del bigoncio, cioè quello, la Bundesbank sa tutto e gli altri non capiscono niente. Va bene, prendiamo atto che quantitative easing è una filosofia un po' pericolosa. E infatti naturalmente Stati Uniti e Gran Bretagna non sono usciti dalla crisi, le economie vanno male, hanno la disoccupazione a record, mentre l'area euro con la filosofia adottata è uscita dalla crisi, la disoccupazione ai minimi e il PIL cresce. Devo cogliere l'espressione ma Weidmann. Non so, no, non è, ci sono. Oggi è venerdì, dai, andiamo avanti. Spread torna sopra i 170 punti, il rendimento al 2,51%. Il ministro dell'economia Padoan ora conta tornare a crescere. L'Unione Europea capirà un'ulteriore correzione nel deficit sarebbe pericolosa. No, Weidmann ha anche aggiunto, visto che lo stavo citando, che non solo è giusto che la Germania vada al deficit zero e non servono stimoli, la Germania non ha bisogno di alcuno stimolo, nonostante il taglio delle stime è ancora prevista una crescita, quindi nessun investimento statale per sostenere l'economia tedesca. Adesso arriviamo alla parte che riguarda le regioni, ve le faccio ascoltare tutte, poi dopo anche altre notizie. Faccio notare però una cosa qui non riguarda le regioni, riguarda i ministeri. Noi da tempo diciamo, abbiamo sospetto, che chi si oppone veramente a un cambiamento della pubblica amministrazione non siano i ministri, siano i capi di gabinetto, i capi degli uffici legali, dei ministeri, che formano una loro casta, si conoscono tutti, si parlano lo stesso linguaggio. Il fatto che le leggi siano di così difficile interpretazione, rimbalzino da un ufficio legale di un ministero all'altro, garantisce a loro il posto di lavoro, e un posto di lavoro anche ben remunerato, visto che raggiungono sempre gli obiettivi preposti, spesso i dirigenti dei ministeri italiani. Ora, non lo diciamo noi, c'è un'intervista di Carlo Cottarelli oggi sul Corriere della Sera. Cottarelli è l'ex commissario alla Spending Review, che dice: la cosa che ha reso più difficile il mio lavoro è stato il sistema dei capi di gabinetto. Si conoscono tutti tra di loro, parlano tutti lo stesso linguaggio, e i capi degli uffici legislativi hanno in mano tutto, scrivono leggi lunghissime, difficilmente leggibili, costituiscono un gruppo omogeneo in cui è difficile entrare, con cui è difficile interagire. Spesso molti documenti non mi venivano dati, non per cattiva intenzione, ma perché non facevo parte della struttura. Dopo 1, 2, 3 settimane venivo a sapere le cose, ho sentito un senso di esclusione. Allora, se posso proporre, possiamo proporre banalmente un'altra riforma o rottamazione al Presidente del Consiglio. Va bene i manager delle partecipate, bisogna stare attenti alla demagogia sui 240.000 euro per tutti, perché secondo me se un manager ha delle grosse responsabilità, se vogliamo introdurre la meritocrazia, è giusto che venga pagato. tanto quello bravo e pagato poco, ho mandato via quello non bravo. Ma la vera rivoluzione, ma non si possono, forse dico una cavolata, non si può rottamare tutti i capi di gabinetto dei ministeri, tutti i responsabili degli uffici legali italiani? Ok, voi direte, per un po' sarà il panico, sarà, vabbè, a parte il fatto che intanto si inizia anche a fare una selezione in giro, qualcuno che potrà fare il capo di gabinetto, magari lo troviamo, qualche avvocato che venga a fare o docente di diritto che venga a fare l'ufficio legale, magari lo troviamo, ma nel frattempo sì, se è ben organizzata, tutti, fai la rottamazione su quelli. Perché è chiaro, e lo dice Cottarelli, che la resistenza alle riforme non arriva dai ministri, anche perché i ministri mi sembrano tutti abbastanza allineati, arriva da chi guadagna centinaia di migliaia di euro e ha il suo posto lì, e se le leggi non fossero così complicate e rimbalzassero da un ministero all'altro, lui non avrebbe senso per esistere. Allora magari avremo 3 mesi in cui si blocca l'attività parlamentare, ma almeno poi ripartiamo con leggi chiare, di facile comprensione, che non rimpallano da un ministero all'altro. E ci faremo una ragione del fatto che i capi di gabinetto troveranno un altro lavoro, visto che sono così bravi, andranno a cercarsi un altro lavoro. E non se ne può più. Lo dice Cottarelli, che ha provato a mettere un po' di ordine nella spesa pubblica, non c'è riuscito, nei risparmi, nella spending review, probabilmente non c'è riuscito. Ma la missione è di quelle che gridano vendetta. Adesso c'è il metodo, la pubblicità, poi le regioni italiane che insorgono, e l'analisi di Massimo Bordignone, uno dei massimi studiosi proprio del sistema regionale e anche federale di questo paese, e poi gli altri temi. Per la Calabria è un disastro, perché questi numeri vorrebbero dire non meno di 120 milioni per una regione che proprio quest'anno dovrebbe finalmente riuscire ad arrivare a un pareggio di bilancio grazie a una sanità che è stata in questi 4 anni ha subito ingenti tagli. Riportare questi ulteriori tagli vuol dire ritornare indietro con il piano di rientro, richiedere ai calabresi di fare ulteriori sacrifici, ulteriori tagli e probabilmente ancora nuove tasse. Cosa pensa della proposta del presidente Rossi sul super ticket? Per la Calabria sarebbe assolutamente impraticabile un'operazione del genere, perché purtroppo la gravità delle situazioni sociali lasciano intravedere uno scenario ovviamente molto difficile. È preferibile togliere gli 80 euro sicuramente del bonus alle famiglie piuttosto che toglierne in servizi sanitari probabilmente 240. E questa è la cifra che abbiamo valutato in qualche modo essere paragonabile rispetto al taglio effettuato. Così la Presidente della Regione Calabria Antonella Stasi al microfono della nostra Valeria De Rosa. E qui arrivo esattamente al punto e ringrazio il professor Massimo Bordignon, che è uno dei massimi esperti di federalismo e di costi delle regioni italiane, insegna scienze e finanza alla Cattolica di Milano. Buonasera professore. Buonasera a lei. Al punto c'è qualcuno che mi scrive: ah, basta con questo populismo di me. Allora, o lei mi contesta i dati che abbiamo dato come errati, o se no devo pensare che lei lavora come capo di gabinetto o come qualcos'altro e è stato toccato nel vivo. Però restiamo sulle regioni. Tutto bene, cioè, io non dico che la Presidente della Regione Calabria, penso ascolteremo anche la Regione Basilicata, la Regione Veneto, cercheremo di avere la Regione Lombardia nella seconda ora, però non abbia ragione nel mettere in guardia la taglia alla sanità. Però mi sarebbe piaciuto che ci avesse raccontato anche a cosa possono rinunciare i, per esempio, consiglieri della Regione, perché sono i più pagati d'Italia, costano a bilancio 1.700.000 euro l'uno all'anno. Non è, ripeto, lo stipendio è di 280.000 euro lordi l'anno. Però quello che dà un po' fastidio, Bordignoni, glielo dico, è che tutto è non potremo toccare la sanità, non potremo coprire le buche. Se uno aggiungesse anche: nel frattempo chiederemo un impegno netto del 30%, poniamo, ai consiglieri, andremo a fare delle cause sui vitalizi, cioè faremo il nostro, chiediamo però una cosa diversa al governo, sarebbe più credibile, oppure il solito populismo, diciamo. Senta, mi lasci rispondere in 3 punti perché ne ha sollevati 3. Allora, come lei forse saprà, io avevo scritto il famoso report di Carlo Cottarelli per Carlo Cottarelli. Sui costi della politica, compresi le regioni. Allora lì le regioni, i consigli regionali ci costano circa 1 miliardo di euro complessivamente, quindi retribuzione più sostegno consiglieri noi avevamo fatto una serie di proposte che avrebbero potuto portare giù questa spesa di almeno altri 300 milioni. Quindi se lei mi dice ci sono dei soldi che si potrebbero risparmiare lavorando sui consigli, sì ci sono, intervenendo su alcuni dei punti che sollevava lei e più in generale sui costi di supporto del consiglio. Comunque è chiaro che anche una volta fatte queste manovre, noi vi stiamo parlando di 4 miliardi, non di 300 certo. milioni, comunque raggiungibili. Su questo della sanità è sempre, c'è da ormai da anni un gioco delle parti tra le regioni e lo Stato. Lo Stato fa finta che i servizi sanitari possano essere offerti senza problemi di risorse e le regioni tutte le volte provano a toccarsi, a toccare naturalmente e mettono davanti i cittadini dicendo questo è insostenibile e quant'altro. È un gioco delle parti. Guardiamoci un po' dentro questo gioco delle parti. Dunque, la realtà vera è che se lei guarda i dati, praticamente la sanità è stato l'unico comparto della spesa pubblica italiana che in questi anni non è stato realmente toccato. Cioè, abbiamo avuto sacrifici molto più pesanti sul campo dell'istruzione, per esempio della sanità. Anche con l'ultimo patto firmato dallo Stato alle regioni, in una situazione come questa si prevedeva addirittura che le regioni avrebbero avuto un incremento delle risorse per il finanziamento del fondo sanitario e che addirittura ogni risparmio fosse mai stato ottenuto nella sanità doveva restare comunque nella regione che faceva il risparmio e investiti solo nella sanità. Secondo me questo tipo di atteggiamento e comportamento non è accettabile in un momento. Questo lo dico pur rendendomi conto di tutte le difficoltà. È evidente che se ci sono dei sacrifici da fare, se si fanno sull'istruzione, bisogna pensarli anche sulla sanità. Poi se la domanda che lei mi pone è ma ci sono 4 miliardi di risparmi nella sanità italiana, la risposta è ovviamente sì. Il problema è se ci sono 4 miliardi e possono essere raggiunti mantenere i servizi in un solo anno, e qui la risposta è più complicata, onestamente, perché chiaramente i risparmi, se le dice ma com'è che si possono portare a casa i risparmi? Si fanno ristrutturando i servizi, soprattutto nel sud, visto che si parlava del sud d'Italia, lì c'è il problema che l'assistenza è ancora fortemente basata sull'assistenza ospedaliera, che è molto più costosa su quella certo. territoriale, si tratta di spostare, c'è un problema anche di acquisto farmaci. I costi standard, diciamo, di mazzette, di criminalità. Ora, diciamo, non so, ora, cioè no, ma guardi, se vuole, no, perché quando vediamo costi 30, 40, 50 volte superiori certo. nelle ASL del sud, io posso pensarla come vuole, però qualcuno ci guadagnerà, e non certo. solo l'impresa che fa la siringa. Comunque, prego. Ma al di là della servizio, secondo me, della famosa siringa, qui anche l'altro passaggio è che probabilmente bisogna anche un po' ripensare al sistema di finanziamento delle regioni sulla sanità. Cioè finora si è usato, c'è un costo standard, ma è un costo standard. Noi finanziamo le regioni per costo standard da 20 anni, ma lo facciamo con una sorta di pro capite pesato in cui si mettono insieme tutte le cose. Invece probabilmente a questo punto è il caso di fare una cosa più organizzata basandosi su malattie, cioè quanto costa, le malattie principali sono quelle che fanno 50-60% della spesa sanitaria, quanto costa affrontare ciascuna malattia e cercare di ricostruire in termini anche di protocolli, se vogliamo in qualche modo controllare la spesa forse bisogna andare un po' più in quella direzione. E poi naturalmente l'altro passo è andare di più nella direzione di questa cosa dei centrali degli acquisti, cioè certo. cercare il più possibile di ridurre. Quanti sono? 30.000 centri appaltanti mi sembra in Italia. Ma non so quante sono, era previsto, c'era questa ipotesi. Vuol dire 30.000 soggetti che possono indire una gara d'appalto per comprare anche 5 fotocopiatrici invece che comprarne 500 assieme. Certo. Sì, però vede anche questo qui, c'era questa proposta di Carlo Cottarelli di ridurla a 32, io non so che fine abbia fatta perché non se n'è più parlato, lui una sola a livello regionale. Uno o due, insomma poche a livello regionale. Queste sono cose che si fanno e che possono portare molti costi, ma chiedono un ottimo organizzatore, perché vuol dire che l'ASL che si deve o anche il comune si deve comprare la carta, invece di comprare la carta facendo l'asta normale, mandando in fotocopiatrice, quello che fa è si rivolge, li acquista collettivamente assieme a tutti gli altri. Ho capito, si chiama gestione, gestione aziendale, si chiamerebbe nel privato, esatto. e noi chiediamo agli amministratori di avere un atteggiamento di organizzare simile. In questo modo, certo. Però sono cose che vanno fatte, capisci? Vanno organizzate. Sì, no, perché bene. È questo secondo me che è sbagliato come approccio di carattere economico da parte delle interviste che adesso vi faremo ascoltare dei presidenti della regione, cioè dire no. Toccherò la sanità o toccherò le buche, o non metterò a posto le buche, come fanno alcuni sindaci. Ieri il sindaco di Ascoli Quando tu, allora, lei ha stimato in 300 milioni sulla base del rapporto, lo ricordiamo molto bene, tra l'altro i dati che io prima citavo erano anche dati elaborati da lei all'inizio del programma, 300 milioni un risparmio possibile sul miliardo all'anno che costa far funzionare le regioni, non i soldi che arrivano alle regioni, far funzionare i palazzi o i grattacieli in alcuni casi, in cui in questo approccio molto understated si sono collocati i governatori delle regioni italiane. Però 300 milioni sono niente rispetto ai 4 miliardi che chiede il governo, questo è chiarissimo. Le chiedo però, e lei dice si devono anche pensare le regioni a riorganizzare la sanità, aggiungo anche alcune regioni non hanno fatto la riorganizzazione degli ospedali più piccoli, che hanno dei costi alti. Allora, un conto è pronto soccorso, ma l'ospedale piccolo non ha nessun senso. So che poi c'è la protesta dei 1000 cittadini che abitano lì, non ha nessun senso, perché tu devi avere un pronto soccorso che poi smisti verso i grandi centri di specializzazione della regione, anche perché da un punto di vista clinico, non è solo un problema economico, il chirurgo che fa 1000 casi di un suo tipo all'anno forse lavora un po' meglio di chi ne vede 10 volte quel caso all'anno. Allora, da sempre si dice usate i presidi ospedalieri sul territorio per la medicina di base e per indirizzare poi nei centri di specializzazione. È inutile chiedere all'ospedale policlinico che abbia tutto e tutto fatto male, ma è vicino a casa, così se devi morire almeno hai il vantaggio che l'intervento fatto male te lo fanno vicino a casa. Non mi sembra una gran soluzione. Qual è il punto di caduta possibile, in senso il punto di accordo possibile, Bordignon, visto che da quanto capiamo vi dovrebbe essere un incontro governo-regioni giovedì 23 ottobre prossimo? Dunque, io conoscendo un po' l'atteggiamento di Renzi, francamente non mi aspetto che ci siano grandi progressi o grandi modifiche rispetto alla situazione attuale. Cioè, è chiaro che se lei lo guarda da un punto di vista politico, e non è responsabilità chiaramente dei presidenti delle regioni in questo momento, le regioni sono anche un soggetto molto indebolito rispetto al passato. Gli scandali a cui abbiamo assistito negli ultimi anni hanno forse messo la parola fine anche ai processi di decentralizzazione che avevamo fatto prima. Quindi diciamo che Renzi si muove in una posizione politicamente di vantaggio, ed è anche chiaro che se lui comincia ad accettare compromessi con tutte le varie forze sono toccate da queste cose, rischia poi di non tenere in piedi la manovra, che già sul piano delle coperture, come ho detto, è un po' ballerina. Quindi io non mi aspetto grandissimi progressi, forse qualche cosa al margine. Quello che mi aspetto è che ci saranno appunto un tentativo di spostare questi eventuali tagli di più su settori diversi della sanità, ma qualche intervento sulla sanità, per esempio come si diceva prima sui TIC e quant'altro, per essere franco io me lo aspetto. Un'ultima battuta sulle regioni a statuto autonomo, mi chiedono molti ascoltatori, perché prima ho dato una mia commento personale su questo, ma perché non si ragiona mai anche su queste? Cioè, in effetti Dunque, loro hanno una cosa, chiaramente queste, poi naturalmente quando lei parla delle regioni a statuto speciale in realtà parla di 5 realtà completamente diverse. Sono d'accordo nell'utilizzo anche dei soldi, però è chiaro che non ci vuole un genio per capire che il modo in cui il Trentino Alto Adige e anche il Friuli Venezia Giulia delle volte sono amministrati è ben diverso da come viene amministrata come costi, come efficienza la regione Sicilia. È facile, è un gioco facile. Però forse non è anche un po' anacronistico, visto che per quanto bene o male vengono amministrate sono sempre soldi degli altri italiani, non è che si autofinanzino sta leggenda che le regioni autonome tengono in casa, non è vero, sono anche soldi nostri. Bordignon. Beh sì, ora è vero, qui c'è un problema di carattere generale, in una situazione di restrizione delle risorse va fatto pagare un po' tutto a tutti. Detto ciò, guardi, il Trentino in questo momento sta soffrendo molto di più di quanto soffriva del passato, la situazione di vantaggio, di bonanza su cui ha potuto contare per diversi anni, perché aveva il vantaggio di incassare i tributi, o una buona parte dei tributi sollevati nel suo territorio, adesso sta scomparendo. In realtà gli sforzi che stanno facendo del Trentino tengono conto anche del fatto che le risorse si stanno riducendo rapidamente. Non le so ancora dire se siamo ritornati allo stesso livello di parità con le altre regioni, probabilmente no, ma certo gli interventi sono stati fatti da parte dello Stato centrale nei confronti di queste regioni, sono stati particolarmente pesanti negli ultimi anni. Quindi guardi, quella situazione di vantaggio che ancora c'è, però è molto meno forte ora di quanto fosse solo qualche anno. Guardi, mi fido, anche perché non è che noi anno per anno andiamo a monitorare cosa fanno le regioni a statuto autonomo, mi fido, lei è uno dei massimi esperti, lo dicevo, dei numeri, e non a caso elaborò il piano sulla riduzione dei costi per le regioni. Sì, alcuni mi fanno notare che sarebbe stato bello che la Presidente della Regione Calabria avesse detto anche certo cercheremo d'accordo con il ministero competente di ridurre, per esempio, il numero di forestali presenti nella regione Calabria. Faccio notare che sono il doppio del Canada, il doppio, che sono 22.000 contro 11.000 in Canada, e non c'è neanche l'orso Yogi. Grazie a Massimo Bordignon. Arrivederci. Dunque, c'è qualcuno che mi scrive: inadeguati sono i ministri, non i capi di gabinetto e i capi dei dipartimenti legislativi dei ministeri. Guardi, i ministri possono anche essere inadeguati, è una valutazione personale, ma io non ho detto che i capi di gabinetto siano inadeguati. E, citando, ho letto l'intervista di Cottarelli, che diceva una cosa molto diversa. Non diceva sono poco preparati i capi di gabinetto o i capi degli uffici legali. Cottarelli diceva: il sistema dei capi di gabinetto è tale per cui si conoscono tutti tra di loro, parlano tutti lo stesso linguaggio e i capi degli uffici legislativi hanno in mano tutto e scrivono leggi lunghissime, difficilmente leggibili, costituiscono un gruppo omogeneo in cui è difficile entrare, con cui è difficile interagire, spesso molti documenti non mi venivano nemmeno dati. L'accusa non è di essere inadeguati o incompetenti, l'accusa è di essere autoreferenziali, di essere una casta e di bloccare qualunque tentativo per snellire quello che è la macchina della pubblica amministrazione. E l'accusa è che loro fanno questo perché è l'unico modo per giustificare la loro posizione strapagata. È un po' diverso da essere inadeguati. E visto che siamo in tema, un applauso del venerdì, oggi veramente lo diamo ai 300 ex dipendenti della Camera dei Deputati, così non parliamo solo delle regioni italiane. Tutti con retribuzione tra i 150.000 e i 300.000 euro l'anno. Complimenti per il coraggio, hanno dichiarato guerra all'amministrazione di Montecitorio. È veramente un atto eroico. Si rifiutano infatti in massa di subire il contributo di solidarietà che il governo Letta ha introdotto un anno fa proprio per le pensioni più alte dei dipendenti pubblici e che viene imposto anche ai più fortunati degli ex della Camera. Ma la resistenza sarà fortissima, lotta dura senza paura. Hanno fatto un ricorso legale perentorio, no al taglio scusatemi del 6%, del 12 o anche del 18% della pensione previsto dalla legge. In effetti, quando tu hai una pensione che è dai 7.000 fino ai 10.000 euro netti al mese, e lì varrebbe il taglio del 6%, il 12% si applicherebbe alle pensioni fino a 14.800 euro al mese, il 18% per le pensioni da 15.000 euro al netti al mese. Beh, bravi, resistete, l'Italia è con voi, anche perché il bilancio della Camera per il 2014 prevede 243 milioni per le pensioni dei dipendenti. Se volete un consiglio, non dite che siete pensionati della Camera in generale, così, visto l'aria che tira. È un applauso per il vostro coraggio. Bravi, bravi. Ma vuoi mettere, insomma, vedessi decurtare del 12% una pensione fino a 15.000 euro dopo che hai già avuto uno stipendio che non ha eguali nel resto del mondo? Bravi, 300, i 300 giovani e forti. Però non aggiungo il resto. E 9 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso commentiamo la borsa, anche perché c'è una novità importante, poi torniamo sul tema delle regioni con una precisazione anche sui forestali, avete ragione, anzi la diamo subito quella sui forestali calabresi. In realtà i 22.000 non sono guardie forestali, che in Calabria sono 500, ma sono operai agricoli o forestali della regione, che appunto sono il doppio dell'intero Canada, Yogi incluso. E faccio notare che nel passato, ma questo, diciamo, riguarda più la cronaca giudiziaria che non altro, nelle zone a alta intensità di 'ndrangheta, San Luca e via così, Africa e quant'altro, spesso queste guardie questi operai agricolo-forestali sono stati accusati, indagati e anche condannati in alcuni casi per essere collusi con il sistema della criminalità organizzata al tempo dei sequestri, ma non solo, cioè davano una mano a gestire i sequestrati. Ma al di là di questo, 22.000 non si può sentire, sono operai agricolo-forestali della regione. Dopodiché, se questo è un modo per fare welfare in Italia, ce lo diciamo, che in questo modo manteniamo l'economia calabrese, però le regioni non dicono che non possono toccare nulla, nessuna spesa. Adesso ci arriviamo. La borsa invece, dicevo, novità importante, perché la Banca Centrale Europea, al di là di quello che possa dire ogni giorno Mr. Weidmann, il presidente della Bundesbank, inizierà lunedì con gli acquisti di cover bond, quindi il quanto annunciato il mese scorso. E secondo la Bundesbank questo si avvicina molto al quantitative easing, cioè lo stampaggio di moneta, anche secondo chi vi parla, però non ci vediamo nulla di male, nel senso l'hanno fatto Federal Reserve, Bank of Japan, Bank of England. È chiaro che la Germania invece questa cosa qui la vede come fumo negli occhi. Veniamo alla borsa di oggi, più 3,42%, che è successo di nuovo rispetto a ieri, l'altro ieri? Niente. Più 3,12 Francoforte, più 2,90 Parigi, più 1,80 Londra, più 1,70 l'America. Niente, o meglio, insomma, sì, lo spread è a 170, ma non è vicino a 200, ma se vogliamo dirci che questo è il motivo, è una balla. Autogrill più 8%, le banche tutte in recupero, rimbalzo, più 7,30% Popolare Emilia Romagna, più 7,20 Banca Popolare, più 6,80 la Popolare di Milano, più 5,40 Unicredit, più 5,20 Mediobanca. E ancora, per quello che riguarda i titoli, faccio notare che di negativo c'è solo Tenaris meno 1,60, CNH meno 1,20%, il Monte dei Paschi recupera parzialmente il 4,22%. Ecco perché si diceva attenti ai movimenti giorno per giorno, perché sono terreno per gli speculatori, per i trader, non per chi vuole fare investimenti di borsa. Comunque, come sempre, il commento lo facciamo con i colleghi di Radio Corriere sulle 24 ore. Guido Maurino, buonasera. Buonasera. C'è magari un motivo, una notizia forte che mi è sfuggita, o l'archiviamo come rimbalzo? No, lo archiviamo come rimbalzo dopo una settimana in cui anche Milano aveva perso quasi il 6%, quindi anche il 3,4% recuperato oggi attenua solo parzialmente i danni fatti nel resto della settimana. Sì, del resto poi insomma è il weekend anche per i trader, in questo modo lo passano in maniera più agevole. Le utilities, già lasciamo stare le banche, le utilities, A2A va bene, più 5%, qui nella legge di stabilità ci sarebbero anche incentivi per le aggregazioni tra le municipalizzate, forse il mercato inizia a ragionare su questo. Sì, il mercato inizia a ragionare su questo perché ci sono questi incentivi sulle aggregazioni che vanno a premiare soprattutto i comuni che sono azionisti delle varie utility, perché se vendono delle quote, se si aggregano eccetera, possono utilizzare le risorse che così vanno a ottenere diciamo fuori dai vincoli dei patti di stabilità, quindi sono soldi che i comuni sostanzialmente possono spendere per varie attività amministrative. Questo ovviamente è un incentivo forte e che lascia presagire il fatto che un'aggregazione fra vari operatori possa venire. Oggi tutte le utility, noi abbiamo segnato A2A più 5,06%, ma anche le altre grosse municipalizzate, ex municipalizzate come ERA o ACEA hanno guadagnato rispettivamente il 4,76%, ACEA il 4,85% e IREN l'1,95%, quindi è stato proprio all'interno di una borsa comunque positiva un andamento generalizzato importante. Per quello che riguarda invece il recupero di Autogrill più 7,90% e World Duty Free più 5%, erano molto calate nelle ultime sedute, anche qui rimbalzo o ci sono notizie? No, anche qui si tratta semplicemente di rimbalzo, consideriamo che a ieri diciamo in 15 giorni dallo scorso 1 ottobre Autogrill aveva perso oltre il 20% e World Duty Free addirittura il 31% di valore, per cui il classico rimbalzo è una giornata positiva. Tenaris invece che succede? Meno 1,60 in una giornata obiettivamente molto positiva? Sì, per quello che riguarda Tenaris, che ci ha avuto l'1,6%, 1% preoccupano un po' le quotazioni del prezzo del petrolio. Ieri sono scesi sotto gli $80 al barile. La società, fra l'altro, proprio ieri aveva fatto una riunione con la comunità finanziaria per spiegare un po' le strategie, ma sostanzialmente non ha convinto. Il timore è che prezzi così bassi possano portare le compagnie petrolifere a rinviare gli investimenti, per cui Tenaris, che sostanzialmente, la dico in modo non correttissimo, ma fa tubi e attrezzature per l'estrazione del greggio, ne verrebbe penalizzata. Ancora Fiat, allora il titolo ha chiuso con un più 4,5%, oggi i dati sulle immatricolazioni auto in Europa sono andati meglio delle attese, perché il dato complessivo europeo è un più 6%, 6,1% nelle immatricolazioni. Fiat è assolutamente in linea, più 6% a settembre, e mantiene la sua quota in Europa stabile al 5,4%. Ha richiamato però Fiat Chrysler Automobiles 907.000 auto per problemi elettrici, includono soprattutto i richiami 437.000 Jeep Wrangler per problemi a uno degli specchietti laterali, riguardano soprattutto il Canada, dicevo. Il titolo comunque fa più 4,5%. In generale, tra i migliori e i peggiori, Seat più 18%, Class più 13,80%, Eurotech più 13,20%. E poi IKF più 9%, Creto Valtellinese più 7,80%. Fronte opposto invece, Key Group meno 4,90%, Noema Life meno 3,20%, Meridie meno 3,80%, Innovatech meno 2,70%. Grazie Guido Maurino, Radio Corriere Sole 24 Ore. Buon fine settimana a tutti i colleghi dell'agenzia di stampa del Sole 24 Ore. Ultima parte di Focus Economia. Hanno ragione alcuni ascoltatori che hanno fatto notare che il governo chiede 4 miliardi in meno alle regioni, però ha stanziato i soldi per i forestali calabresi. Ripeto, anche lì i forestali, come intendiamo noi, sono 500, gli altri 20.000 e passa sono in realtà dipendenti della regione. Li chiamiamo forestali, ma hanno anche un altro nome. Allora, ha stanziato 140 milioni di euro per i forestali della Calabria a decorrere dal 2017. È una bozza, però insomma l'esercito delle migliaia di tute verdi della regione può festeggiare. Faccio notare che i forestali calabresi, al di là di quello che raccontavo sul rapporto con l'Andrangheta, non lo diciamo noi, è dimostrato da decine di inchieste e processi della magistratura, ma al di là di questo I forestali del calabresi hanno divorato nel corso degli anni centinaia di milioni di euro dal 1984. Pensate che nel triennio 93-95 arrivò un contributo speciale per i forestali calabresi da 1.340 miliardi delle vecchie lire, cioè circa 700 milioni di euro di adesso. E ogni manovra la lobby dei forestali, chissà chi li rappresenta in Parlamento, chissà che rapporti ha, riesce a portare a casa il finanziamento. Infatti anche nel 2012 beccarono 160 milioni di euro come contributo speciale alla Regione Calabria per l'attuazione degli interventi straordinari di competenza regionale nei settori della silvicoltura e della tutela del patrimonio forestale. Qualcuno visiti l'Aspromonte per favore e mi dica com'è tenuto il parco, però, perché quello che abbiamo visto noi è tutto tranne che tutela. Altri 80 milioni di euro li mette la regione Calabria per tenere in vita questa realtà. Ci sono appunto migliaia di lavoratori stagionali a part time che dovrebbero pulire i boschi, curare un patrimonio forestale e fare prevenzione. Ce ne sono altri 28.000 in Sicilia. Allora, ripeto, diciamocene anche con estrema sincerità, se decidiamo che quella è una forma di sussidio di disoccupazione che diamo alla Calabria e alla Sicilia, ce lo diciamo, la mettiamo nel costo del welfare, ma è inutile continuare a raccontarsi balle, tant'è che il capo della protezione civile, Franco Gabrielli, li ha definiti così. La politica ha trovato consenso collocando persone in contenitori che, lungi dal servire a qualcosa, lo dice il capo della protezione civile, sono un peso per la finanza pubblica e non svolgono la funzione a cui sono preposti. Tra l'altro Renzi un anno fa in un'intervista alla Stampa, proprio in tema dei forestali calabresi, diceva: deve sapere forestale che non verrà licenziato ma dovrà lavorare moltissimo. Oh, vi ho fatto un po' aspettare perché stavamo attendendo di raggiungere il governatore della Lombardia, Roberto Maroni, buonasera. Eccomi qua, buonasera. Allora, Maroni, io la stimavo come lei lo sa, come ministro degli interni e anche come governatore, però la domanda è molto semplice, ci vorrei fare ascoltare se ho un minuto il presidente della regione Basilicata, Marcello Pittella, che dà ragione sostanzialmente alla linea del governo. 4 miliardi potrebbero essere anche 4, 6 o 5 miliardi, che in percentuale ovviamente danno per regione il taglio a cui ci si sottopone. Per la Basilicata questo taglio a quanto ammonta? E abbiamo una forbice tra i 60 e gli 80 milioni di euro, però vogliamo recuperare tutto intero lo spirito che anima il presidente Renzi in questa formulazione di legge di stabilità. Noi da anni diciamo che vogliamo ridurre la tassazione sul costo del lavoro e l'impresa per fare ripartire il motore dell'economia e il motore dell'occupazione, abbiamo bisogno di tagliare da qualche parte, cercare di tagliare tutte le spese che sono meno prioritarie rispetto al lavoro. Quindi lei come presidente di regione esclude dei tagli sui servizi primari, quindi la sanità, i trasporti? Assolutamente, lei sa che i trasporti saranno sicuramente colpiti da questa manovra. Il tema qual è? La regione Basilicata, se decide che il servizio dei trasporti o il servizio in sanità o nel sociale deve comunque essere coperto, dovrà trovare risorse all'interno del proprio bilancio, della propria spesa corrente, per coprire lì dove il governo ci chiede il sacrificio. E possiamo fare qualche esempio di queste spese meno? Certo, possiamo provare a fare meno sagre o zero sagre, tagliare sulla telefonia, sulla rappresentanza, sul convegno, sulle consulenze, rimodulazione, voglio dire, della spesa per gli enti strumentali, le società in house, le partecipate regionali su beni, su acquisto di beni e servizi, sulle spese di funzionamento. Possiamo provare a razionalizzare anche i servizi? Allora, presidente Maroni, questo è il punto. Voi spendete come Lombardia 17 milioni di euro l'anno, i dati sono del 2013, per i consiglieri, altri 10 milioni per i consiglieri cessati dal servizio. E poi la pensione vi costa altri 20 milioni. Come carico al contribuente lombardo avete uno dei più bassi, 7 euro per abitante, e questo lo riconosciamo ampiamente. La remunerazione dei consiglieri invece è nella media, non è nelle più basse, 214 mila euro. Ma la domanda è molto semplice. Prima di dire toccheremo la sanità o i comuni, i sindaci, dire non riusciremo a rimettere a posto le buche, non si poteva cercare di dire beh, qualcosa da tagliare ce l'abbiamo anche noi? Come, proprio come approccio? Ma noi abbiamo tagliato tutto, abbiamo eliminato i vitalizi, forse non è chiaro, abbiamo eliminato i vitalizi, abbiamo ridotto le retribuzioni dei consiglieri, io ho quasi praticamente azzerato le spese di trasferta per la giunta, ho eliminato le auto blu. Vogliamo dire che consiglieri e assessori devono venire a fare il loro lavoro gratis? Va bene, diciamolo, azzeriamo tutto, che cosa risparmiamo? Zero virgola. Ho sentito Pittella, lo stimo, gli faccio una proposta. I dipendenti pubblici in Lombardia costano 19 euro pro capite, in Basilicata costano 220 euro pro capite. Cominciamo ad applicare in tutte le regioni i costi standard, facciamo il benchmark, allora ne risparmiamo 10 di miliardi, non 4. È troppo comodo fare i conti con una bilancio che è pieno di grasso che cola come quello di alcune regioni del sud. La Lombardia con 10 milioni di abitanti ha 3.000 dipendenti, la Sicilia con metà degli abitanti di dipendenti ne ha 30.000. Allora io dico, lancio la sfida a Renzi, i miliardi da tagliare, da risparmiare, 5 non 4, ma facciamolo attraverso i costi standard, andiamo a individuare in ciascuna regione sulla sanità, sull'ambiente, sulle infrastrutture, sull'organizzazione dei servizi, dove si fa meglio spendendo meno, e applichiamo quei parametri in tutte le regioni, altrimenti la regione più virtuosa, e la Lombardia è tra queste, sarà ovviamente penalizzata, perché noi abbiamo già ridotto tutto, abbiamo ridotto all'osso i costi. Noi avremo, sentivo Pittella che avrà un taglio di 80 milioni, noi avremo un taglio di 930 milioni, 730 dei quali nella sanità e 200 su tutto il resto. Io non ho margine per ridurre questi costi senza ridurre i servizi, punto. Ecco, il suo punto è molto chiaro, Maroni, e devo dire che personalmente lo condivido, cioè abbiamo detto basta che questi tagli non siano lineari. A me non è piaciuta la reazione subito sulla sanità, subito sulle buche per i comuni, manco non ci fosse nulla da tagliare nelle regioni. Però, visto che, se ho ben capito, vi sarà un incontro la prossima settimana con il Presidente del Consiglio, il punto di caduta, lei parlerà con Chiamparino, che vi rappresenta tutti come governatori regionali, quale potrebbe essere? Teniamo 4 miliardi, però la ripartizione deve essere fatta in maniera diversa, perché così è solo una ripartizione lineare, cioè in proporzione alla regione tu dai il tuo contributo? È molto semplice, costi standard, ci sono tutte le simulazioni del mondo sulla sanità, che è l'80% dei bilanci delle regioni, costi standard in sanità, quanto costa una siringa in Lombardia, in Veneto, in Calabria, in Sicilia? Una siringa è una siringa, ok? Facciamo che il costo deve essere quello, quindi si riducono i costi. Vediamo la regione che è meglio performante su tutti questi capitoli e prendiamo quello come costo base. Se io pago una radiografia 10 e in un'altra regione 100 la stessa cosa, c'è un problema. Perché io pago 10 e l'altra 100 o viceversa? Se in un'altra regione un servizio costa meno che in Lombardia, devo essere costretto a usare quel parametro. Maroni, è chiarissimo il suo ragionamento. Le faccio un'ultima domanda. Perché secondo lei questo non è già presente nella bozza della legge di stabilità? Oppure vi attendete che il governo sia più preciso e più articolato nel chiedere questi 4 miliardi di risparmi? È molto semplice, è molto più facile dire alle regioni sono cavoli vostri, dateci 4 miliardi, piuttosto che dire costringere alcune regioni dove per esempio si vota fra poco, fra qualche mese o l'anno prossimo, a costringere a fare i conti in casa. L'unico motivo è questo. Si riferisce al Veneto di Zaia? Abbiamo avuto anche lui ospite oggi. Si vota fra poco, si vota in Emilia, si vota in Calabria, è ovvio che poi ci sono anche queste valutazioni. Chi pensa male dice questo, siccome io non penso male escludo questo. Diciamo che è stato un po' superficiale il governo, ma noi abbiamo modo di mostrare, di dire al governo che cosa va fatto. Noi siamo pronti alla sfida, persino più soldi, però fatti nel modo ripartiti giusto, cioè con i costi standard. Okay. Allora, noi la riavremo ospite, governatore Maroni, dopo l'incontro che farete come regioni, non solo la regione Lombardia, con il governo, per capire se io trovo molto ragionevole quello che lei dice, così come ho attaccato i costi delle regioni, anche della regione Lombardia, trovo ragionevole quello che lei dice. Grazie Roberto Maroni e soprattutto grazie a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione anche questa settimana, a Pietro Lacorte per la musica che ha messo la festa di Radio 24 due giorni fa. Noi ci risentiamo lunedì, intanto da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata e di un buon fine settimana.